Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. E per essere chiari, questo non è un film da o quanto mi sento bene. Ma qual è il significato di tutto? Se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e oh mio Dio, la coloscopia. Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone. Rido perché questo film Basta che funzioni di Woody Allen mi è davvero piaciuto, io vi invito a rivederlo. Basta che funzioni, per l'appunto, ma spesso la soluzione per far funzionare le cose e quindi stare meglio ce l'abbiamo a portata di mano, sotto gli occhi, ma è talmente semplice da diventare invisibile. Provare per credere e intanto provate a indovinare. Non costa nulla. Non richiede requisiti particolari, non ha stagioni, adatta per i solitari, indicata per chi ama stare in compagnia, rilassante, ricaricante. Dottor Stefano Genovese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Responsabile della diabetologia e malattie metaboliche del gruppo Multimedica di Milano. Lei ha indovinato? Che cos'è? Mi sembra che la risposta giusta possa essere il cammino. Camminare non costa nulla, non richiede requisiti particolari, si può fare in tutte le stagioni, ovviamente bisogna stare un po' attenti a coprirsi d'inverno, è adatta sia per i solitari e anche per chi ama stare in compagnia, è rilassante, ricarica e soprattutto fa bene alla nostra salute. Camminare è sentire, scoprire, tornare al piacere del corpo in movimento. Se passeggiamo, i nostri sensi annusano l'aria, il cambiamento delle stagioni, percepiamo il suolo, la sabbia, l'acqua sotto i nostri piedi. Le avvertiamo senza la mediazione di pneumatici, di ruote o rotaie. Siamo in diretto contatto fisico con le radici e il mistero della terra a noi si fa più vicino. Il cammino della vita, la vita come un camminare, sono metafora spirituale e filosofica che ci chiede di porci domande rispetto alla nostra stessa storia di vita. Così Duccio Demetrio, filosofo, parla del cammino nel suo libro Filosofia del Camminare. Intanto io chiedo a voi di mandarci un sms con la camminata del vostro cuore, direi. Trasportateci quindi nell'atmosfera di un vostro ricordo per riviverne immagini, colori, profumi. Quello che insomma vi invito a mandarmi al 349-238-6666 è: camminare è, puntini di sospensione, scrivete voi la migliore definizione, la migliore frase, similitudine, riceverà a casa il libro, il consiglio di lettura di oggi, che è per l'appunto Filosofia del Camminare di Duccio Demetrio, grazie alla collaborazione con IBS. Si può camminare in città, si può camminare al mare, in montagna, nei parchi, ma qual è la camminata che ci fa bene? Il fit walking, letteralmente camminare per la forma fisica, un'attività sportiva adatta a tutti che produce benessere, wellness metabolico. Permette quindi di evidenziare nella nostra vita ciò che è racchiuso nel senso vero del camminare, e cioè giusti ritmi, tranquillità e serenità, equilibrio psicofisico. Il fit walking è dunque una camminata di tipo sportivo a differenti livelli di intensità e di durata a seconda dell'efficienza fisica e del grado di allenamento, con una forte valenza terapeutica. La tecnica del fit walking si basa essenzialmente nel dare maggiore intensità, efficacia ed efficienza all'azione motoria attraverso un avanzamento più fluido e spedito, utilizzando il moto ritmico delle oscillazioni degli arti superiori con un corretto assetto posturale. Vincitore olimpico sui 20 km a Mosca nel 1980 e campione del mondo nell'87 a Roma e nel 91 a Tokyo, che con le medaglie di bronzo ottenute ai giochi di Los Angeles e Seul ha assunto anche lui a pieno titolo la dimensione del mito. Ed è in linea con noi Maurizio da Milano. Maurizio, ciao, benvenuto. Buongiorno, ciao. Intanto che ti saluto, ricordo ai nostri ascoltatori, se vogliono intervenire in diretta, 800 24 00 24. Maurizio da Milano ci spiegherà anche come si fa a praticare il fit walking. Maurizio, credo sia importante, oltre al passo, la postura. Insomma, spiegaci tu come si fa a partire con il piede giusto. Ma partire col piede giusto è piuttosto semplice, nel senso che il feet walking è effettivamente la evoluzione sportiva, se vogliamo così definirla, comunque di camminata veloce rispetto al nostro normale modo di camminare. Si tratta di inserire su quella che è la nostra qualità quotidiana dell'esercizio fisico un briciolo di tecnica, perché questa diventi più efficiente, più efficace e capace di dare quel valore aggiunto che deriva appunto da un'attività di tipo motorio sportivo che riesce a integrare la qualità stessa dell'esercizio. Quindi è molto semplice. Adatta a tutti? Adatta a tutti, controindicazioni praticamente azzerate, perché camminare in fondo è l'esercizio che tutti possono fare più naturale possibile e più efficace. Dottor Genovese, lei è d'accordo? Assolutamente sì, camminare fa molto bene, anzi colgo l'occasione per salutare Maurizio da Milano, che ho conosciuto qualche tempo fa proprio in uno dei suoi seminari in cui insegnava a camminare. Sembra paradossale, ma bisogna imparare a camminare bene. Camminare permette di bruciare calorie. Camminare lentamente permette di bruciare circa 150 calorie all'ora. Camminare un po' più velocemente, faccio un esempio, 5 km all'ora, che è un camminare abbastanza a buon ritmo, diciamo, sì, senza esagerare, permette di bruciare il doppio delle calorie, quindi 300 calorie in un'ora. Caspita. Quindi sicuramente fa molto bene. Quindi canta che ti passa la paura, cammina che ti va giù la pancetta, dottor Genovese. Sicuramente sì, sicuramente bisogna abbinare queste due cose, anche magari camminare sentendosi anche un po' di musica che ti permette di distrarti. Non so se Maurizio è d'accordo su questo, quando si è un po' più impegnati magari la musica può distrarre, però sentire un po' di musica e soprattutto camminare fa bene e fa ridurre la pancetta. Maurizio, tu ascolti musica quando fai fit walking? Ma io normalmente no, però credo che sicuramente per le persone che hanno così più necessità di trovare un esercizio che insomma anche il passare del tempo durante l'esercizio con più facilità, l'ascoltare musica non sia un negativo, anzi possa aiutare appunto a fare meno pesante la durata dell'esercizio. Come è già stato detto, chiaramente più si evolve la qualità stessa dell'attività fisica e più si sente la necessità magari di ascoltare il proprio fisico piuttosto che la musica che viene dalle cuffiette, ma questo è un'evoluzione naturale poi in qualsiasi tipo di esercizio. Senti Maurizio, per l'abbigliamento bisogna utilizzare ad esempio delle scarpe particolari? Vanno bene le scarpe da ginnastica o quali attenzioni dobbiamo avere per scegliere, per camminare bene? Diciamo che si cammina coi piedi, quindi le scarpe hanno un ruolo essenziale nella quella che è l'abbigliamento per il camminatore. Esistono sul mercato scarpe specifiche adatte al camminare, naturalmente si possono usare anche le cosiddette scarpe da running, ma è chiaro che la costruzione proprio di una scarpa specifica per camminare dà alcuni vantaggi che derivano soprattutto dalla loro conformazione rispetto a quello che è il movimento del piede, quindi facilitano l'attacco di piede nel momento in cui contattiamo il terreno con il tacco, ne facilitano la fase di rullata, ossia il movimento di avvicinamento del piede a terra, dal quale consegue poi l'impreco. Questo è essenzialmente il vantaggio maggiore. Ti sentiamo un po' malino, Maurizio, magari proviamo a richiamarti, ma quello che volevo raccontare ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di fit walking, che diventa protagonista in occasione della giornata mondiale del diabete fissata per il 14 novembre, perché sabato 13 e domenica 14 nelle piazze, nei parchi di tante città italiane, trainer specializzati addestrati proprio da Maurizio da Milano guideranno tutti coloro che vorranno scoprire l'arte, la tecnica del fit walking terapeutico all'aria aperta per migliorare, come ci ha ricordato il nostro dottor Genovese, la salute, il benessere e la qualità della vita. Tutte le informazioni le trovate sul sito giornatadeldiabeteitalia.it oppure chiamando il numero verde 800 97 40 44. Dottor Genovese, sempre più ricerche dimostrano che i due alleati della nostra salute, noi a Essere Benessere lo ripetiamo diciamo continuamente sono la dieta equilibrata e il movimento, ma c'è un dato molto molto interessante che voglio sottolineare con lei oggi. Moto e dieta riducono del 60% la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2, 60%. Un trattamento farmacologico lo abbassa solo del 30%. Dottore, questi sono dei dati che ci devono fare riflettere e invitare a muoverci. Assolutamente sì. Questi sono dei dati sicuramente molto solidi, anche perché sono stati prodotti da due studi diversi e condotti uno in Europa e uno negli Stati Uniti, quindi su due popolazioni diverse. Ma il dato importante è che in entrambi gli studi un approccio terapeutico basato su dieta e attività fisica ha ottenuto lo stesso risultato, una riduzione del 60% di sviluppare il diabete. Per andare un pochino più nel dettaglio, si trattava di soggetti che avevano ad elevato rischio per diabete, quindi avevano già la glicemia un pochino mossa, soprattutto dopo il carico di glucosio, e che erano sottoposti nel gruppo di trattamento, come diciamo noi, a una dieta che doveva ridurre il peso corporeo di almeno il 7%, quindi per una persona di 70 kg stiamo parlando di un calo di 5 kg, sì. E un'attività fisica di tipo aerobico, quindi vuol dire non particolarmente intensa o esagerata, è una tipologia di attività fisica, per almeno 150 minuti a settimana, quindi un totale di 2 ore e mezzo a settimana. Sì. Con questo approccio si è ottenuto questo eclatante risultato di una riduzione del rischio di sviluppare il diabete del 60%. Ripetiamolo, moto e dieta riducono del 60% la possibilità di sviluppare il diabete, che viene considerato proprio una patologia sempre più in aumento, alcune le chiamano proprio un'epidemia. Dottor Genovese, quindi sì, come dicevo, la riduzione avviene su soggetti già a rischio per diabete, cioè soggetti che sono già vicini al diabete, quindi possiamo immaginarci cosa potrebbe essere l'impatto in persone che magari non hanno ancora, diciamo così, un rischio elevato di diabete, ma un'attività fisica e un'appropriata dieta possono essere veramente una strategia molto molto utile per diciamo prevenire in modo significativo questa patologia. Maurizio, ci dai qualche consiglio? Ad esempio, molti ascoltatori mi dicono: meglio la mattina o alla sera? Come si inizia? Quanto tempo si cammina per così iniziare ad averne poi i benefici? Maurizio. Sì, allora, da te che sei un campione, noi prendiamo appunti. Allora, diciamo che mattino o pomeriggio è indifferente, certo che fa parte di quella che può essere la scelta, l'agenda di quotidiana delle persone rispetto ai tempi che possono dedicare all'attività, sì, fisico-motoria. Partiamo da uscite di 20-30 minuti, che camminando sono effettivamente un approccio che si può fare tranquillamente, per portarci poi abbastanza rapidamente verso i 45 minuti l'ora di esercizio. Ecco, diciamo che tra i 45 minuti e l'ora di esercizio fatta ad un passo già sostenuto, noi parliamo sempre di ingresso in quelli che sono diciamo così l'attività del cammino sportivo, del feet walking, dai 6 km all'ora in avanti. Quindi parliamo di una camminata a passo più spedito, più deciso di quello che è la normale passeggiata, ma senza che questa, nella fase iniziale almeno, diventi un esercizio assolutamente elevato, quindi un esercizio di moderato impegno che può fare tranquillamente qualsiasi persona. A queste velocità, per una durata di 45 minuti, un'ora, almeno 4 volte a settimana, si ottengono effettivamente grandi benefici. Noi abbiamo visto in questi anni, lavorando veramente a stretto contatto con il mondo della salute, il diabete è una delle patologie che ne trae maggiori vantaggi, essendo una sindrome metabolica ne ha un vantaggio importante, e sicuramente attraverso questa pratica, affiancata ad una corretta alimentazione, quindi arrivando ad uno stile di vita corretto, si possono ottenere grandi benefici sul piano salutistico. Diventiamo campioni. È una base importante. Laura da Verona, buongiorno. Buongiorno. sono un po' emozionata. E niente, perché? Perché c'è Maurizio da Milano o per in generale? Anche un grande campione. Per un grande campione. No, lei non sa, Laura, quanti messaggi arrivano per Maurizio da Milano. Credo. Io sono molto invidiosa. No, Laura. Complimenti. Niente, io ho scoperto di portare la pressione alta, sì. Piace tantissimo camminare, solo che adesso mi sono bloccata, non so, il consiglio del dottore, posso continuare, devo proprio fermarmi e regolarla, questa pressione è alta. È alta, alta quanto, Laura? È 160, 92, 166, 101. Laura, ma lei ha seguito i nostri consigli per un pizzico in meno, tanta salute in più? Sto seguendo. Brava, inizi dal sale e poi adesso io la passo al dottor Genovese, che sicuramente le dirà di darsi una mossa, vero dottor Genovese? Assolutamente, ecco. Sì. Ovviamente va bene il sale, ma con i valori che la signora ci ha detto si impone un trattamento farmacologico. Quindi prima di iniziare l'attività fisica ricordiamoci di andare dal dottore, verificare appunto la pressione, verificare che la pressione sia a posto, quindi la signora deve iniziare un trattamento. Una volta che la pressione è ben controllata potrà fare assolutamente iniziare un'attività fisica, dopo che il suo medico avrà fatto anche una valutazione cardiologica, ovviamente tutte le valutazioni necessarie per iniziare un'attività fisica. E l'attività fisica, sì, ben condotta potrebbe permettere un'ulteriore riduzione dei valori pressori e magari di ridurre il trattamento farmacologico. Questo è stato osservato in numerosi studi in cui si è visto come l'attività fisica, riducendo i fattori di rischio cardiovascolare, quindi la glicemia, il colesterolo, ma anche la pressione arteriosa, può permettere la riduzione dei dosaggi farmacologici. Maurizio, anche i bambini possono fare fit walking? Sì, è dato anche... Un ascoltatore mi sta scrivendo che non dobbiamo chiamarlo fit walking, ma abbiamo una lingua molto ricca, bisogna chiamarlo cammino. Maurizio, passo a te questa questo invito, provocazione, allora, questa bacchettata. Partiamo dal concetto nostro che nasce come proposta di attività, dove la base sua di idea, di concetto, era l'idea del camminare bene per stare bene. Chiaramente sì. Sintetizzare questo... non ci era possibile in comunicazione utilizzare una terminologia come camminare bene per stare bene, sarebbe stato assolutamente esageratamente lungo per permettere una comunicazione diretta ed efficace, per cui la scelta è andata verso fit walking, che appunto unisce l'idea del fitness, quindi forma fisica, lo stare bene, con il walking, che è il camminare. Questa è la spiegazione del perché si è andati verso questa terminologia, non certamente per esterofilia, ma solamente per praticità. Per il resto, rispondendo alla tua domanda, sicuramente anche per i bambini, anche per i giovani, l'attività è molto adatta, anzi se pensiamo che l'obesità infantile è uno dei problemi in crescita, quindi partire proprio dalla base più semplice, che è quella di camminare di più, è un esercizio assolutamente utile per la salute dei giovani, anche se indubbiamente un giovane poi può tranquillamente guardare ad un approccio successivo verso attività di tipo più sportivo, tra virgolette anche competitivo, perché l'età L'età ampiamente. Certo. Allora io saluto Maurizio da Milano, lo ringrazio, ricordo nelle piazze sabato 13 e domenica 14, piazze, parchi anche di molte città italiane, potete proprio scoprire l'arte e la tecnica del fit walk in occasione della giornata mondiale del diabete. Dottor Genovese, ringrazio anche a lei. Grazie mille, saluto anch'io Maurizio da Milano, spero di vederlo presto, magari andiamo a farci insieme. Fare una camminata insieme. Potrebbe essere una buona idea. Va bene, allora... Grazie mille. Io nel salutare volevo ricordare una cosa per chi è interessato: il nostro sito www.feedwalking.it troverà molte informazioni sul feedwalk. Grazie ancora. Noi andiamo di corsa ai mercati, ma ci sta raggiungendo, io credo di corsa, poi vediamo, magari avrà il fiatone, un grande maratoneta. Tra poco. Dal cammino alla corsa il passo è breve, ma i risultati sono sempre salutari. I benefici si avvertono dopo qualche tempo e i vantaggi sono durature. In linea con noi il nostro dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Dottore, voi state seguendo gli ascoltatori di Essere Benessere, di Radio 24, mi sto allargando, che si preparano a fare la maratona di Firenze. Sì, stanno gli ultimi giorni, consigli, soprattutto rispetto alla gestione di questi ultimi giorni di allenamento e in particolare di riposo, e rispetto alle problematiche nutrizionali in questi giorni e nel giorno immediatamente precedente la gara, nonché nel giorno della gara. Direi che gran parte dei consigli sono in questo ambito. E in linea con noi abbiamo un grandissimo campione, Stefano Baldini. Stefano, ciao! Ciao, un buongiorno a tutti. Senti Stefano, sicuramente i nostri ascoltatori adesso chiameranno l'800240024 per parlare con te, per chiederti qualche consiglio, ma io ti ho invitato e sono molto contenta che tu sia con me qua oggi, perché tu scendi in campo come testimonial della Giornata Mondiale del Diabete. Lo slogan infatti di quest'anno è "Corriamo più veloci del diabete", quindi da te, grande sportivo, un invito a muoversi ma anche un invito alla prevenzione. Che messaggio vuoi lanciare ai nostri ascoltatori? Beh, chiaramente il 13 e il 14 novembre sono giornate importanti, perché c'è la possibilità di andare in 500 piazze delle principali città d'Italia, dove insomma uno staff di medici, prelevando una semplice goccia di sangue da un dito, ti possono controllare il livello di glucosio del sangue, quindi il tasso di glicemia, e controllare se siamo a posto oppure se abbiamo bisogno di un qualche controllo ulteriore. Ecco, questo è l'invito che facciamo per il 13 e 14 novembre, e correre sicuramente dà la possibilità, assieme ad una dieta equilibrata, e di prevenire i rischi del diabete. Sì, ne abbiamo parlato proprio anche con il dottor Genovese prima, che ci ha dato dei numeri un po' da capogiro. Moto e dieta riducono del 60% la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2, un trattamento farmacologico lo abbassa solo del 30%. Lo ripeto più volte, perché dottor Confalonieri, questi dati mi hanno molto stupito e secondo me sono dei dati che ciascuno di noi deve ricordare quando magari si fa vincere dalla pigrizia o magari rimanda il giorno in cui dare un po' un nuovo stile alla sua dieta. Dottore? Beh, diciamo che l'esercizio fisico da una parte e una dieta equilibrata dall'altra sono due strumenti fondamentali, sia, come credo abbiate detto, nella prevenzione del diabete legato appunto alla abitudine della vita, sia nella gestione del diabete geneticamente determinato. Ecco, da questo punto di vista ritengo abbiamo due alleati fondamentali. Anch'io personalmente ho seguito e seguo numerosissimi atleti che erano affetti magari da un diabete di tipo genetico e che hanno, nonostante questo, raggiunto risultati anche di altissimo livello. E dall'altra parte cerco di convincere le persone che cominciano a fare qualcosa, a occuparsi del loro corpo, che uno degli obiettivi di questo tipo di scelta può senz'altro essere anche la prevenzione di questa patologia. Stefano, vuoi dare, oltre ad invitare, l'abbiamo fatto, i nostri ascoltatori a sensibilizzarsi alla prevenzione, a partecipare alla Giornata Mondiale del Diabete, vuoi dare qualche consiglio per così suggerire, per invitare, stimolare i nostri ascoltatori a iniziare a correre? Noi abbiamo parlato di cammino, spesso si inizia con il cammino e poi si continua, no? E si diventa maratoneti. Certo, il cammino è lo stadio iniziale, soprattutto per chi magari ha una sedentarietà prolungata, insomma è da tempo che non fa attività fisica, quindi prima di correre sicuramente è meglio camminare e poi magari alternare un po' di cammino, un po' di corsa, per successivamente riuscire a fare anche una discreta distanza, tutto con un bel movimento. E quest'anno lo spot che abbiamo girato per la Giornata Nazionale del Diabete, tra l'altro, è stato molto divertente, e come protagonista oltre a me c'è anche Cristian Agnoli, che è il presidente dell'associazione Onlus Diabete No Limits e a sua volta un maratoneta, quindi proprio in prima persona lui insomma mi ha un po' spiegato tutto quanto. Lui ha un diabete di tipo 1 e l'attività fisica gli consente di assumere pochissimi farmaci, quando invece ne dovrebbe assumere molto di più se fosse sedentario. E chiediamo conferma al dottor Scaramuzza, che è in linea con noi, responsabile del servizio di diabetologia clinica pediatrica all'Università di Milano, ospedale Luigi Sacco. Buongiorno dottore. Buongiorno. Stefano ci ha ricordato, ci ha raccontato e ci ha portato a parlare di diabete di tipo 1 e attività sportiva. Anche le persone affette da diabete di tipo 1 possono diventare grandi sportivi. Assolutamente sì, Gary Hall credo che sia l'esempio più eclatante, un nuotatore statunitense che ha vinto medaglie d'oro e d'argento in 4 edizioni successive delle Olimpiadi, diabetico da quando aveva 12 anni. Quindi quando la stoffa c'è, come nel caso di Stefano, credo che poi il diabete non impedisca di raggiungere ottimi risultati. Ed l'attività fisica aiuta anche a ridurre i farmaci? Allora, il diabete di tipo 1 presuppone la somministrazione di insulina che non può mai mancare, però l'attività sportiva, soprattutto quando condotta con regolarità, permette di ridurre molto le dosi di insulina e quindi sicuramente di ottimizzare la terapia. Io saluto Stefano Baldini, vi ringrazio per essere stato con noi. Stefano, un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata, a presto. Grazie davvero. Dottor Confalonieri, lei resta o scappa? Io posso restare. Oh, bene, perché noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori a mandarci una definizione, una descrizione, una metafora riguardo al cammino, e ne stanno arrivando davvero tantissimi al 349-238-6666. Camminare, sentirsi un insieme unico come mente, corpo, ambiente, e stare bene con se stessi e con gli altri. Il cammino è una metafora della vita. Ne abbiamo diversi, adesso ve li leggerò. Camminare sotto una nevicata alla luce dei lampioni in un silenzio assordante, e quello che ci piacerà di più, toccherà di più le nostre corde, riceverà a casa Filosofia del Camminare grazie alla collaborazione con IBS. Mi dà una definizione lei del cammino, dottor Confalonieri, perché lei è anche un po' poeta? No, beh, sono un po' poeta, ma adesso mi ha preso un po' alla sprovvista, quindi senza essere poeti, ma cercando di essere molto pratici, direi che il cammino ha un grandissimo vantaggio, è davvero l'unica attività fisica alla portata di tutti e senza nessun tipo di controindicazione. Capisco che sia poco poetica, però davvero diciamo che il cammino non ammette scuse, se vogliamo una definizione un po' più drastica, cioè nessuno può dire non ho il tempo o non ho il fisico o non ho l'allenamento per camminare. Ecco, il cammino non ammette scuse. Chiunque di noi, il momento in cui sceglie, può cominciare a camminare. E poi ci consente indubbiamente di entrare in un rapporto con gli altri e soprattutto con l'ambiente dove viviamo, che è completamente diverso. Perché camminando possiamo guardare e guardando possiamo crescere. Camminare e respirare un autentico senso di benessere e libertà interiore, ci scrive Pierre, mentre camminare è libertà e benessere fisico e mentale. Da tutti i messaggi, dottor Scaramuzza, viene sottolineato questa particolarità del camminare, che ti dà proprio una libertà e un benessere, direi, fisico e mentale. Lei lo insegna anche ai suoi pazientini, perché lei si occupa di principalmente di bambini. Che cosa racconta loro per invitarli a fare del movimento proprio un alleato del benessere, un ingrediente quotidiano? Ma io direi, per rimanere nell'ambito delle definizioni, che il cammino regala anni alla vita, perché camminare vuol dire restare in forma e anche vita agli anni, direi. Assolutamente sì, e permette di rimanere in forma. Io mi occupo principalmente di bambini con diabete di tipo 2, però sta purtroppo drammaticamente aumentando il numero di bambini adolescenti affetti da diabete di tipo 2, che è una patologia completamente diversa, di solito legata all'obesità e soprattutto alla sedentarietà. Ci sono studi scientifici molto rigorosi e controllati che hanno dimostrato con evidenza che l'introduzione di un'attività fisica regolare permette addirittura di prevenire il diabete di tipo 2. Quindi questo è il messaggio che noi cerchiamo di dare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, proprio per rimanere in forma e per restarlo il più a lungo possibile. Dottore, tra l'altro, come ricordava anche il dottor Confalonieri e Stefano Baldini, ci sono anche diabetici che sono arrivati ad alti livelli sportivi. Assolutamente sì, io prima facevo cenno a Gary Hall, ma ce ne sono sicuramente altre decine in moltissimi sport, dal canottaggio al tennis, al calcio, alla pallavolo. Io sono convinto che per essere un campione di sport ci vogliano delle doti che non tutti noi abbiamo, per cui bisogna essere fortunati e bisogna che la nostra genetica e la nostra dea bendata ci dia queste capacità, ma quando queste capacità ci sono, il diabete non impedisce di raggiungere dei livelli di eccellenza. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Posso dirvi che voi siete veramente bravi? Mi mandate dei messaggi al 349-238-6666 che mi mettete molto in difficoltà, perché sono uno più bello dell'altro. Siete dei poeti. Viabilità. Muoversi per stare bene, muoversi per tornare a stare bene. Insieme a noi il dottor Franco Confalonieri e il dottor Scaramuzza. Ma dottor Confalonieri, molti ascoltatori mi scrivono: ma allora è meglio camminare quanto o è meglio buttarsi sulla corsa? Dottore, ci sono dei prerequisiti? Ci sono persone a cui noi dobbiamo consigliare di camminare, altre a cui invece possiamo dire no, per te, per la tua condizione, per la tua struttura fisica, per gli obiettivi che vuoi raggiungere, è meglio che tu ti dia una mossa, quindi che tu corra, dottore? Ma non vorrei essere ripetitivo, però dovrei rifarmi al concetto di gradualità che tante volte abbiamo citato. Ma io gliel'ho fatta apposta, perché volevo la parola magica. Grazie, nel senso che davvero io consiglierei alla gran parte delle persone che non fanno già sport in modo continuativo di cominciare camminando, perché cominciare camminando ci consente innanzitutto di poter poi aumentare il carico allenante, quindi l'efficacia dell'allenamento nel tempo, e poi riduce al minimo i rischi di sovraccarico a livello articolare, a livello muscolare, quindi i rischi di fermarci per un incidente o per una patologia. Quindi sicuramente cominciamo camminando. Naturalmente le categorie per cui è più importante cominciare camminando sono le categorie delle persone non allenate, delle persone in sovrappeso e delle persone con qualche fattore di rischio a livello articolare, in particolare penso a ginocchia, caviglie, anche e colonna. Quindi per loro diventa tassativo. Per gli altri direi cominciamo camminando, perché è importante cominciare piano, c'è tempo per correre, ecco. Abbiamo in linea con noi Diego, ci chiama da Brescia, 800240024. Diego, buongiorno. Buongiorno. Intanto Diego, posso leggerle? Io sono alcune definizioni del cammino. Una è arrivata adesso di Debbie, vorrei che lei così la commentasse. Camminare è metafora di vita. La salita, il bivio, stanchezza mitigata da colori e suoni, respirando con la vita. Brava, no? Sì, ottimo direi. Lei avrebbe aggiunto qualcosa, detto qualcosa di diverso? No, direi che è sufficiente, è ottimo com'è. Bene, allora abbiamo anche il voto di Diego. Diego, ci racconti di lei invece? Niente, volevo sapere se il food walking si può praticare anche sul tapirulan. Mi è sembrato di sentire che la velocità consigliata fosse i 6 km all'ora. E il tempo dai 30 ai 45 minuti, se non vado, volevo una conferma. Dottor Confalonieri? Ma sì, ma diciamo che dal punto di vista biomeccanico camminare sul tappeto è un po' diverso che camminare per strada, è importante, può essere significativo, va fatto per tempi minori e con intensità minori, secondo me come alternativa al camminare per strada, non come unico tipo di allenamento. Rispetto poi al fatto di fare 30, 45, 6 km all'ora, bisogna già essere quasi atleti, È già decisamente impegnativo. Però io, per chi comincia, consiglierei di cominciare con un'andatura anche più ridotta, intorno ai 4 km e mezzo all'ora, e inizialmente sono sufficienti 15-20 minuti, se no il rischio è quello di chiedere troppo all'inizio, disamorarsi e non continuare. Invece, dottor Scaramuzza, noi che cosa dobbiamo chiedere ai nostri bambini? Abbiamo dedicato proprio una puntata ai bambini sovrappeso, si dice che i nostri bambini italiani siano i più cicciottelli d'Europa, abbiamo visto che non si può loro imporre una dieta, ma insegnare loro uno stile, no, di vita, e assolutamente il movimento è necessario. Dobbiamo in qualche modo farli così allontanare dal rischio pigrizia, rischio sedentarietà. Lei che con i bambini ci lavora, quale consiglio può dare alle mamme in ascolto riguardo al movimento? Ma sicuramente quello di favorire l'uscita all'aria aperta dei loro bambini, anche semplicemente per giocare, che già è movimento, quindi non la necessità per forza di partecipare ad uno sport organizzato, questo almeno partendo dai primi anni. Purtroppo noi ci troviamo ogni giorno a combattere contro l'attrazione fornita dai videogiochi, dai computer, che sono uno strumento molto comodo per passare il tempo, ma purtroppo che non favoriscono il movimento. La nostra raccomandazione è quella di fare almeno 30 minuti al giorno di movimento, e come diceva il dottor Confalonieri benissimo, è sufficiente camminare e nessuno può portare alibi che non è in grado di farlo. Certo. E quindi bambini, genitori, camminate. Dottor Scaramuzza, dottor Confalonieri, io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Ci sentiamo a lei, presto. La possibilità di parlare con i radioascoltatori. Grazie, e noi ci sentiamo, quindi buona giornata del diabete. Grazie al dottor Scaramuzza, trovate tutte le informazioni su diabeteitalia.it. Il dottor Scaramuzza diceva ci sono i bambini stanno troppo davanti ai videogiochi, non si muovono, quindi diventano sedentari, ma la tecnologia ci invita anche a vincere la pigrizia, alzarsi dal divano e a fare movimento anche senza uscire da casa. È arrivato ieri in tutto il mondo, rivoluzionerà il modo di giocare, siete invitati ad alzarvi dal divano e a muovervi. Flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and circle forward 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Si chiama Your Shape Fitness Evolved ed è un software che sfrutta la tecnologia Player Projection per costruire programmi di fitness personalizzati. Ci sono voluti più di 2 anni di ricerche per mettere a punto un sistema in grado di proiettare i giocatori direttamente all'interno del videogioco e monitorare i loro movimenti. La tecnologia Player Projection permette quindi di ricostruire tridimensionalmente la figura di ogni giocatore, offrendo la possibilità al software di valutare con grande precisione ogni posizione del corpo e stabilire se la postura durante gli esercizi è quella giusta o se invece va corretta. Un personal trainer virtuale aiuta a sviluppare la muscolatura, a tonificare il corpo o a scoprire l'energia dello yoga con esercizi personalizzati e adatti all'altezza, alla taglia e alla struttura di ogni singolo giocatore. La telecamera è impietosa. Se le gambe non si sollevano abbastanza o la schiena non sta dritta, il personal trainer virtuale lo farà notare. Ma se sarete bravi, verrete premiati con un punteggio che valuta i vostri progressi e potrà essere confrontato con quello degli amici per vincere la sfida a chi si impegna di più. In linea con noi abbiamo Stefano Gallarini, il guerriero. Ciao Stefano. Ciao Giovanni Coletta. Io sono in chiusura. Lo so che sei di corsa, però ne parleremo. Volevo dire solo brevemente, i videogiochi è vero, ma forse oggi cominciamo a muoverci davvero anche quando si videogioca. Io ti lascio, poi appunto domani Stefano Gallarini, se voi siete interessati, domani noi parleremo di gentilezza e Stefano Gallarini tornerà gentilmente a trovarci per parlare di questo nuovo possibilità che ci offre la tecnologia. E domani, perché oggi non c'è più tempo, leggeremo bene i messaggi e vi diremo quello che riceverà a casa Filosofia del Camminare. È tutto, a domani. Essere e benessere.